La legge è particolarmente grave per due ordini di motivi. Il primo è che chiaramente si vuole imporre una verità storica per legge. Ora, noi siamo stati contrari anche alla legge sul negazionismo, nel senso che la verità storica è una verità scientifica, dunque è una verità relativa, dunque è oggetto di continua ricerca. È molto difficile fissare per legge un limite, anche se questo limite è odiosamente superato, come nel caso del negazionismo, perché esisterà sempre un margine nel quale una ricerca animata da sentimenti positivi e seriamente scientifica rischierebbe di incappare nei rigori di una legge. Dunque il negazionismo va colpito in un altro modo. Quindi la prima colpa di questa legge polacca è di volere imporre una interpretazione storica unica e assoluta. Il secondo motivo è che in questo modo la Polonia sottrae se stessa, ma con se stessa gran parte dell'Europa, a un bilancio storico che è assolutamente necessario. Noi sappiamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale la maggior parte dei paesi europei si sono lavati la coscienza scaricando le colpe della Seconda Guerra Mondiale, delle atrocità della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah in particolare, sulla Germania. Per cui sembra che l'Italia non abbia avuto un proprio antisemitismo, sembra che l'Ungheria non abbia avuto un proprio antisemitismo, sembra che la Francia non abbia avuto un proprio antisemitismo, perché la colpa è stata quella dei tedeschi, già che loro hanno organizzato i campi di sterminio. Ora, noi nel corso dei decenni abbiamo faticosamente superato questo pregiudizio, stiamo studiando, stiamo ricostruendo gli antisemitismi nazionali, stiamo ricostruendo come in forme diverse tutti i regimi fascisti e i regimi di destra nel corso degli anni che hanno preceduto e hanno accompagnato la Seconda Guerra Mondiale hanno costruito un proprio antisemitismo e una propria persecuzione degli ebrei. Questa è una battuta d'arresto francamente inaccettabile. Venendo alla Polonia in senso stretto, la Polonia è un paese vittima perché è stato conquistato immediatamente dalla Germania nazista, che ha imposto un regime di occupazione particolarmente duro, particolarmente violento, anche perché caratterizzato da una precisa volontà razzistica. Gli slavi nella logica nazista erano considerati inferiori e dunque sacrificabili da una parte e dall'altra parte destinati a lavori servili per la superiore razza ariana. Quindi sono stati certamente vittime, ma questo non può indurci ad ignorare il fatto che la Polonia è stato un paese fortemente antisemita, che i polacchi sono stati, alcuni polacchi certamente sono stati complici dello sterminio, che certamente i campi nazisti in territorio polacco erano gestiti dai nazisti tedeschi, ma che attorno c'era una Polonia che non ha voluto vedere. Quindi è una negazione di un problema, come se la Polonia potesse chiamarsi fuori dal suo passato, dalla storia europea. Nel passato della Polonia c'è l'antisemitismo, nella storia europea c'è l'antisemitismo. In entrambi i casi c'è la collaborazione con lo sterminio nazista. Aggiungiamo una cosa, che l'antisemitismo polacco è talmente forte che un anno dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando un gruppo di ebrei importante, un paio di migliaia di persone, sono tornate in Polonia, sono state oggetto di un pogrom che ha prodotto decine e decine di morti ad opera dei polacchi, dei cittadini polacchi, non di truppe tedesche. La Polonia era già libera da un anno, non c'era più un solo tedesco in tutto il territorio polacco, erano cittadini polacchi antisemiti che hanno prodotto questo. Dunque particolarmente grave questa negazione totale, questo sciacquarsi la coscienza per legge con la minaccia di sanzioni durissime se qualcuno la mettesse in dubbio. Perché il governo fa questo? Beh, per due motivi che sono entrambi molto inquietanti. Il primo, la costruzione di un nazionalismo che vuole cercare una purezza anche dal punto di vista del proprio passato, un nazionalismo assoluto che si pone al di fuori di ogni possibilità di critica. In secondo luogo, un ammiccamento all'estrema destra. L'estrema destra ha il problema, si pone il problema in questi anni, in Polonia come in tutta Europa, di risolvere il rapporto con il proprio passato nazista e dunque si ammicca a questa destra dicendo: guardate, nessuno vi metterà in discussione perché con questa legge sgombriamo il campo da ogni critica possibile.